la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo venerdì 14 di novembre in diretta qui dai studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e andiamo subito in questa rapidissima, speedy gonzalesca trasmissione al tema del giorno, per vedere se volete chiamare all'800 24 00 24. No, non la dedichiamo ai tanti cortei che stamattina hanno bloccato molte città italiane, non lo dedichiamo a questo. Naturalmente piena libertà di bloccare le città, io ogni volta mi gratto la testa, però questi sono problemi miei, per così dire. Oggi facciamo una puntata che si aggancia al fatto che domani si chiude ufficialmente la consultazione pubblica, che è durata un mese, sulla proposta di riforma della scuola. No, perché non è una proposta dettagliata, diciamo sui principi ai quali si dovrebbe uniformare la riforma della scuola lanciata dal governo Renzi un mese e mezzo fa, e per 30 giorni appunto il governo Renzi ha detto scriveteci cosa ne pensate di questi principi. Si chiude domani, quindi siete ancora in tempo per mandare le vostre idee se non l'avete già fatto, e in occasione di questo facciamo un secondo il punto per vedere, siate voi studenti, insegnanti, famiglie, vi aspettate davvero con questi chiari di luna e quello che succede, lo scontro sull'economia, il Jobs Act, le dimissioni di Napolitano, il fatto che sulla riforma elettorale in 72 ore è cambiato tutto, veramente possiamo pensare che la scuola sia la priorità? E la logica direbbe di sì, ovviamente, però a me non pare. Detto tutto questo, ieri ho visto uscire un sondaggio fatto dal centro studi di uno dei sindacati della scuola, di uno dei sindacati non confederale, ma uno dei sindacati che ha fatto negli ultimi 20 anni un pezzo alternativo, no? Di storia del sindacalismo nella scuola, e quando l'ho visto sono sobbalzato, per così dire. Quindi, in attesa delle vostre telefonate per capire se e come vi aspettate una scuola migliore o peggiore, sempre che abbiate dato un occhio ai principi della buona scuola, come si chiama con l'hashtag la riforma lanciata dal governo Renzi, in teoria piena di buone cose, di novità, come basta gli scatti di anzianità per gli insegnanti, una parte di retribuzione giudicata per merito, abbiamo già fatto trasmissioni su come secondo noi dovrebbe essere organizzata una valutazione terza indipendente del merito, invece lì c'è scritto che comunque ai 2/3 degli insegnanti ogni anno si dà la retribuzione di merito con una valutazione largamente fatta dagli stessi istituti in cui lavorano. Però al di là di questo, ecco, una riforma nella quale secondo me mancano dei pezzi importanti, cioè io sarei per una scelta di una istruzione secondaria con un canale professionalizzante molto forte e non nell'angolino come i vecchi ITIS, perché l'esperienza tedesca insegna che questo aiuta a professionalizzare con le aziende a fianco e a trovare molti posti di lavoro adeguati alle richieste delle aziende ben prima dei 27-28 anni. Vorrei anche le lauree brevi professionalizzanti, molto più di quanto non siano nell'ordinamento Berlinguer vigente, però ecco, queste cose sono molto sullo sfondo rispetto ai principi della buona scuola, ma questa è solo la mia opinione. Però è meglio parlare di che cosa il sondaggio che ho letto ieri e che è riportato alcuni oggi ci dice di quello che pensano gli insegnanti, perché è un sondaggio a campione fatto sugli insegnanti italiani, su alcune proprio delle scelte fondamentali della buona scuola su cui domani si chiude la consultazione. Per parlarcene è con noi un insegnante che è responsabile del centro studi del sindacato in questione, Agilda, Gianluigi Dotti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori, la ringrazio per l'invito. E noi, se figuri, anche perché questa indagine di cui sul vostro sito ci sono tutti gli estremi, sul sito www.gildains.it, è un sondaggio con un campione sufficientemente ampio, sono 2734 insegnanti a cui avete rivolto 9 domande in un questionario. E io la pregherei di dirci innanzitutto quali sono i risultati che non mi stupiscono, ma che fanno molto riflettere, spero che facciano molto riflettere i nostri ascoltatori, partendo da alcuni punti, diciamo, i più innovativi per quello che riguarda la professione degli insegnanti, sulla retribuzione e così via, cioè gli scatti di anzianità, il salario di merito, le eventuali chiamate dirette per merito da parte degli istituti. Insomma, quale risposte hanno avuto dagli insegnanti queste questioni? Allora, le domande domande, erano 9, come diceva lei giustamente, solo su alcuni punti della buona scuola, che sono 140 pagine di questo, sì, di questo dossier del governo. E sugli scatti di anzianità. Sugli scatti di anzianità abbiamo chiesto se gli insegnanti erano favorevoli o contrari all'abolizione degli scatti di anzianità, così come prevede Tutcur, così come prevede il dossier a buona scuola. E 4 risposte, 2 per il molto abbastanza favorevole all'abolizione, 2 poco per niente. Il 94% si colloca nelle 2 poco per niente. Cioè il 94% quindi difende gli scatti di anzianità. Gli scatti di anzianità. Poi abbiamo anche chiesto di giudicare, di dare un parere sul percorso di carriera, un percorso di carriera che premi soltanto il 66% degli insegnanti ogni 3 anni, ogni triennio, e anche qui il giudizio è piuttosto negativo. Il 92% di questi circa 3.000 colleghi che hanno risposto sono contrari. Questo però, aggiungerei, non dice che gli insegnanti sono contrari al merito, attenzione, dice che sono contrari a questo merito naturalmente, perché un precedente sondaggio fatto con la SVG, con un campione censuario scientifico, ci diceva invece che gli insegnanti non erano contrari al merito, questo vorrei precisarlo. No, ma come principio è un conto, altro conto naturalmente poi rispetto a come valutarlo. Nel momento in cui si va a perché dire... a dire la verità, io penso che il 66, stabilire già per principio a quanti lo do è già una cosa, abbiamo fatto qua 2 puntate, esatto, in cui esatto, è una cosa che non torna rispetto a come funziona altrove. No? Quindi... Assolutamente, la domanda era su quello, in effetti. Sull'altra questione, su come invece, sulla chiamata diretta del dirigente scolastico, cioè siete d'accordo o meno appunto alla chiamata diretta del dirigente scolastico, anche qui il campione, sempre con le 4, il 90% è contrario alla chiamata diretta. Credo che qui incida molto il familismo italiano, però non vorrei entrare già nella valutazione. In che senso il familismo italiano? Nel senso che credo che molti colleghi abbiano timore che prevalgano gli amici degli amici, insomma, per merito, sì, come dovrebbe essere, gli amici degli chiamare amici. Il più competente invece si chiamino poi gli amici degli amici o addirittura i parenti. Come succede purtroppo. Sì, abbiamo letto di un senato accademico, stiamo parlando di quello di Bari, nel quale la settimana scorsa ma è incredibile che un senato accademico, ricordiamolo a chi è in ascolto, che esamina ufficialmente la questione rispetto all'indicazione di dover dichiarare i gradi di affinità, consanguinità e parentela di chi sta in cattedra, il senato accademico viene investito della seguente questione: ma mica vorremmo mettere anche le mogli tra i parenti? Esatto. Ecco, è una cosa che sembra uscire da un vecchio film di Ugo Tognazzi, mentre in realtà è la realtà che avviene sotto i nostri occhi. Capisco che molti insegnanti dicano: beh, se l'università di Bari costano le mogli e non parenti, figuriamoci se noi possiamo fidarci. Però la domanda che le faccio per il momento su questi primi 3 quesiti: la risposta che viene data da questo campione di insegnanti, soprattutto sulla difesa degli scatti di anzianità, non è una risposta che li consegna essere dei conservatori per definizione, perché gli scatti di anzianità sono la negazione del merito, cioè sono il fatto che meglio essere dipendenti pubblici tutti uguali piuttosto che diversificati per quello che facciamo, o no? La nostra opinione è un pochino diversa, cioè noi lavorando e studiando con i colleghi abbiamo verificato che la richiesta degli scatti di anzianità non è alternativa al merito, ma come succede in moltissimi paesi europei, dovrebbe essere affiancata ad una progressione poi per merito, che sia quella francese piuttosto che quella del nord Europa, dove il merito viene valutato in maniera diversa. A nostro avviso lo scatto di anzianità premia l'esperienza, perché è vero che noi impariamo, io sono un insegnante, stamattina quando mi avete chiamato per questo servizio ero in classe, ho dovuto rispondere alla fine dell'ora, perché noi crediamo che l'esperienza, tutti gli anni che noi passiamo nelle classi, a nostra volta impariamo ad insegnare. Quindi questa premialità andrebbe vista in questa ottica, non per premiare l'anzianità, cioè lo in cattedra. Però, professor Dotti, chi vuole negare che l'esperienza accumula un bagaglio e che ovviamente anche con l'evoluzione del tempo, degli studenti, delle tecnologie e così, esatto, via. Ma non c'è dubbio che è così. Però detto questo, lo scatto di anzianità in realtà parifica tutti, cioè è come riconoscere che tu tutti hanno lo stesso coefficiente di evoluzione e miglioramento nel tempo. Già oggi lo stato di infinità si raggiunge senza demerito, cioè se ci sono delle sanzioni disciplinari eccetera, però vengono sa meglio di me non è procrastinati di un anno, per cui quello potrebbe essere un altro disincentivo, però, diciamo, alla uniformità. Però è vero che tutti quelli che entrano in classe accumulano esperienza, quindi una parte, diciamo, del riconoscimento potrebbe essere, a nostro avviso, fatto con e mantenendo gli scatti di anzianità. La parte invece che potrebbe differenziare andrebbe studiata e elaborata in maniera diversa, insomma. Quindi il merito andrebbe affiancato, non sostituito dagli scatti di anzianità. Questa è la nostra opinione, no, e penso che sia l'opinione che questo momento tra i colleghi sta... Adesso io le faccio una domanda, ma la risposta me la dà dopo 60 secondi, perché abbiamo le informazioni sulle strade. Anche voi sindacati avete partecipato al confronto, come era possibile per tutti i cittadini, e richiesto per tutti i cittadini interessati da parte del governo, cioè esclusivamente allo stato attuale, mandando documenti online? La versione di Oscar. Allora, eccoci qui, tornati a parlare della consultazione civile domani sui principi della riforma scolastica lanciati un mese e mezzo fa dal governo Renzi. Domani è fine della consultazione. Parliamo di questo sondaggio lanciato tra quasi 3.000 insegnanti dalla Gilda, e abbiamo visto le prime risposte a tre quesiti: un no assolutamente prevalente, oltre il 90%, all'abolizione degli scatti di anzianità, idem alla proposta di retribuzione di merito per il 66% degli insegnanti ogni triennio, fortissima contrarietà anche alla chiamata dei dirigenti scolastici da parte dei singoli istituti. Ho chiesto al nostro amico che ha accettato di essere qui, il professor Gianluigi Dotti della GIDA, se anche i sindacati fino a questo momento, questo è l'unico strumento che hanno avuto per un momento di confronto con il governo? Fino ad ora questo è l'unico strumento, il sito labuonascuola.gov.it, dove si possono appunto compilare questi sette questionari nelle principali tipologie. C'è stato un incontro il 12 col ministro alle 18 di sera, ma da quello che risulta da questo incontro non ci sono state aperture o... Quindi non avete un calendario di fronte a voi condiviso? Per il momento non c'è ancora nessun tipo di calendario di tavolo tecnico aperto su queste cose, no. Perché del resto poi c'è anche un problemino che riguarda il contratto. Quindi. E quello è un problema che dura da diversi anni, l'ultimo aumento stipendiale nostro è stato all'inizio del 2009, era la coda del contratto precedente, come tutta la pubblica amministrazione, certamente. Senza nessun tipo, allora, anzi, dove abbiamo perso dei soldi in realtà, potere d'acquisto chiaro, è diminuito notevolmente. Chiaro che è come per le pensioni, oltre una certa soglia e così via, cioè, lo Stato ha deciso lui chi far fermare, per così dire. Un attimo solo, vorrei proprio anche contestare quella buona scuola come titolo dato a questo dossier, perché sembra che la scuola di prima non c'è, ma questo ora non c'è nulla. Fa parte un po' della comunicazione standard di questo governo. Venendo via da scuola mia, insegno in un istituto superiore a Brescia, venendo via da scuola mia ho incontrato i genitori che entravano, perché noi abbiamo uno scambio culturale con l'India. Quindi portiamo i nostri studenti in India, e a loro volta quindi c'è chi si dà da fare. No, non ma questo... solo, noi abbiamo uno scambio con l'India, con la Cina e con l'Argentina. In questo che tipo di istituto anno. È il? È un istituto tecnico, istituto superiore, dove c'è un liceo linguistico e un istituto tecnico commerciale. Ottimo. Vi faccio fare un po' di domande dai nostri ascoltatori. Allora, cominciamo con Gianfranco da Genova. Prego, Gianfranco. Gianfranco, mi pare che è caduta la linea, nel frattempo come lo richiamate, cominciamo con Giuliano da Roma. Giuliano. Buonasera Giannino. Buonasera. Grazie per l'ospitalità. Figura. Senta, io sono un docente e condivido quanto stavate dicendo in trasmissione. Se Renzi vuole togliere gli scatti di anzianità, secondo me li dovrebbe togliere in tutta la pubblica amministrazione, perché se no si colpisce soltanto una categoria e non l'altra. Bravo. Io personalmente invece avrei tenuto gli scatti di anzianità come garanzia, soprattutto per i docenti che sono ormai vicini alla pensione e quant'altro, e in più messo semmai mai quelli di merito, perché chi ci dice che stando in Italia non ci sia del clientelismo? Per cui se io vado in odio, vado in puzza, mi scusi l'espressione, no, certo, un po' romano, a un dirigente scolastico, fra 30 anni io andrò in pensione con gli stessi scatti di quando sono entrato. Giuliano, abbiamo visto come in una delle tre risposte che abbiamo esaminato, quello sulla chiamata diretta dei dirigenti, che questo fattore, diciamo fattore di contestualizzazione ambientale del vedere come funzionano le cose in Italia, ha il suo peso. Lei ha richiamato esattamente questo, però le faccio osservare che anche diciamo un possibile intreccio tra anzianità e merito era esattamente quello che ci diceva Gianluigi Dotti prima come valutazione della Gilda. Allora, Davide da Torino, prego Davide. Sì, buonasera. Buonasera. Io sono un medico, tra un anno dovrei prendere lo scatto d'anzianità dei 5 anni, no? Sì. Non sono d'accordo sul fatto che lo scatto d'anzianità parifica tutti, quindi toglie il merito, in quanto proviamo a toglierlo, se non togliamo lo scatto d'anzianità, lì sì che siamo veramente tutti parificati. Poi io sono un medico. Ma se lo togliamo e basta, senza sostituirlo con un criterio diverso, ha perfettamente ragione, ci mancherebbe altro. Il problema è di sostituirlo con un criterio diverso. Cioè, come ha visto nei principi della buona scuola, ce n'è uno che non mi convince. Io ci ho fatto due puntate invitando esperti e facendone parlare anche in un caso da fuori Italia, di sistemi di valutazione oggi operanti all'interno di diversi ordinamenti scolastici. Ne abbiamo esaminati diversi, completamente diversi da questo che dice il governo, che come al solito è elaborato non so con quale criterio internazionale, perché non ne abbiamo trovato uno di analogo che fissi ex ante la percentuale di coloro ai quali va il criterio, e neanche, a dire la verità, il meccanismo di valutazione. Però detto tutto questo, Davide ha ragione, se uno dice semplicemente leviamo l'anzianità e basta, è ovvio che c'è l'identità di tutti e l'eguaglianza di tutti verso il basso, verso il ribasso. Il problema, Davide, se io le chiedessi lei verso quale criterio di valutazione del merito per esempio sarebbe personalmente favorevole nella sua esperienza, cosa risponderebbe? Davide. Ma credo che bisognerebbe, nel mio campo, che quello medico, valutare la qualità del lavoro espressa in termini, potrebbe essere di interventi chirurgici, certo, di relazione, certo che diventa molto complesso. Diventa molto complesso, questo lo abbiamo visto anche nei sistemi esteri, non è una cosa, per così dire, priva di enormi problemi. Però altrove, abbiamo visto il caso di Washington DC negli Stati Uniti, che in particolare quello che più ci aveva colpito, lì veramente è una cosa in cui chi finisce nel grado di valutazione più basso rischia il licenziamento l'anno dopo, riguarda il 15%, abbiamo visto in quel caso di insegnanti, quelli che sono nella fascia intermedia hanno un warning di 2 anni in cui o si rimettono in sesto oppure c'è anche proprio il licenziamento. Però la cosa incredibile è che per le due fasce più elevate c'erano mega premi in termini monetari e di scatti dirigenziali. Voglio chiudere con Gianluigi Dotti. Lei si aspetta da questa consultazione, quando il governo ce ne renderà noti i risultati, un arricchimento o un cambio di direzione, Gianluigi? Allora, noi ci aspettiamo un cambio di direzione da parte del governo, perché io sono andato e ho fatto anche io il questionario come insegnante e ho controllato, ho verificato le richieste dei docenti, ci sono molte critiche a questo piano, sì, ho visto dentro anch'io. Nelle proposte, ho visto anch'io. E quello che anche ho sentito da alcuni articoli del governo dice ci sono tanti mi piace, 30.000, ma sono tanti mi piace. I mi piace non servono qui, nel merito che si va a controllare con la 24 e domani mattina alle 10, Conti della Belva!